si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, buon sabato, vigilia di Pasqua, ben ritrovati da Alessio Maurizi, staremo insieme fino alle 10, un'occhiata ai giornali di oggi, tra pochissimo poi cominceremo con i nostri approfondimenti, le buone notizie, saluteremo l'arrivo dell'etichettatura con indicazione dell'origine anche di tutte le altre carni, dopo le carni, dopo la mucca pazza, insomma dopo la fine dell'emergenza mucca pazza, adesso tocca anche a carni suine, ovine, caprine, pollame, insomma c'è l'etichettatura, la trasparenza con indicata l'origine di queste carni, un risultato importante per il Made in Italy, per i nostri allevamenti, salutato con favore a tutte le associazioni di coltivatori e allevatori. Ma ci occuperemo anche di una scadenza: il 31 marzo sono definitivamente chiuse in Italia le strutture, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli ex manicomi criminali, ci sono circa 1.000-2.000 persone che dovranno trovare nuove sistemazioni in quelle che diventeranno le residenze mediche per la sicurezza sanitaria. Un risultato importante, salutato con soddisfazione da chi in questi anni si è battuto per la chiusura di strutture che dopo la famosa ispezione dell'allora Commissione di Sanità guidata da Marino, poi diventato Sindaco di Roma, fecero luce su condizioni di vera e propria detenzione senza medici, in condizioni veramente miserabili. Però c'è anche qualche preoccupazione per che cosa succederà a queste 1.000-2.000 persone, ci sono anche persone che hanno commesso dei reati, ci occuperemo di questo dopo il giornale radio delle 9, adesso cominciamo con i giornali di oggi, vai! Perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora, quasi ovunque su tutti i giornali si commenta l'accordo raggiunto a Losanna, un'intesa di massima sulla fine delle sanzioni all'Iran in cambio del depotenziamento del programma nucleare di questo paese, con insomma il doppio aspetto dei festeggiamenti avvenuti a Teheran da parte della popolazione locale. Molti giovani che salutano la fine delle sanzioni come, diciamo, la possibilità di sbarcare in un'epoca nuova, la fine dell'isolamento per un paese così grande, così importante. Dall'altra invece le preoccupazioni di Israele, le lamentele di Israele per diciamo la fine dell'accerchiamento su un paese che continua a non riconoscere l'esistenza di Israele, che Israele stessa vive come una minaccia. Ma poi c'è anche naturalmente la politica italiana, con la burrasca che sale di grado di temperatura dentro Forza Italia, ancora altre notizie. Cominciamo con il Corriere della Sera, che invece dedica il titolo principale alle parole del Papa alla vigilia della Pasqua, ieri il rito della Via Crucis, Papa Francesco alla Via Crucis, cristiani perseguitati sotto i nostri occhi, uccisi nel silenzio complice. Ogni mese, fa sapere il Vaticano, sono 322 i cristiani che vengono uccisi nel mondo. No all'indifferenza, ha chiesto il predicatore della Casa Pontificia, padre Cantalamessa, che ha parlato di una inquietante indifferenza delle istituzioni mondiali su questo, insomma, un rapporto che è stato presentato su 196 stati, ripeto, 322 vittime ogni mese. E l'ultima grave strage è quella fatta in un campus universitario in Kenya, dove sono morte quasi 150 persone in un colpo solo. Ma dicevamo, foto notizia, centropagina sul Corriere con le proteste di Israele per l'accordo con l'Iran, e invece nella foto si vedono due giovani ragazze a volto scoperto che escono dalla macchina sedute fuori dai finestrini, come quando da noi succede soltanto quando l'Italia vince i mondiali o cose di questo genere, con le mani aperte, le dita che indicano una V di vittoria. Ed è appunto Teheran che festeggia l'accordo quadro sul nucleare. Il governo israeliano però protesta: l'Iran riconosca prima della firma il nostro diritto di esistere. Poi vedremo su questo tra poco qualche piccolo approfondimento con opinioni di segno opposto, come dicevamo, ma c'è anche la vicenda, ci soffermiamo un attimo anche su questo, che riguarda l'ultimo divorzio, diciamo, in ordine di tempo per quanto riguarda Berlusconi, la sua lunga storia politica e imprenditoriale, tutti gli addii. L'ultimo è quello che è avvenuto ieri definitivamente, a quanto pare, con Sandro Bondi, che per molto tempo è stato, insomma, come dire, forse il politico responsabile del partito più vicino a Berlusconi. Berlusconi attacca Bondi. E poi c'è anche lo strappo confitto in Puglia, il titolo questo, il secondo titolo del Corriere. L'ex premier ha rivolto a Sandro Bondi un brusco invito a tacere dopo l'abbandono del partito assieme a Manuela Rapetti, sua moglie. La replica di Bondi: abbiamo subito un linciaggio, non staremo più in silenzio, vediamo che l'amore è finito. Scrive il Corriere, con il poeta Sandro, che è vero, il poeta Sandro, ce lo ricordiamo, i suoi versi che celebravano la vita nova assieme a Berlusconi. Il Corriere cita una poesia di Sandro Bondi di qualche anno fa, totalmente altri tempi, tutta un'altra aria. Bondi scriveva a Silvio, così, vita assaporata, questa celebre poesia rimarrà negli annali, vita preceduta, vita inseguita, vita amata, vita vitale, vita ritrovata, vita splendente, vita svelata e infine vita nuova. Ve l'ho letta anche perché da qualcuno Bondi è stato considerato addirittura un poeta anche di un certo livello, e questa era la poesia dedicata a Berlusconi, che però ieri ha detto: anche chi per ragioni personali abbia abbandonato Forza Italia venendo meno al mandato degli elettori dovrebbe fare i conti con la propria coscienza, restando almeno in silenzio. Bondi ha detto: col cavolo che resterò in silenzio a questo punto, che mi hai praticamente cacciato anche a me, dopo Fini, dopo altri, dal partito. Ha fatto la stessa fine di Fini. Col cavolo che me ne resto in silenzio. Bondi, raggiunto al telefono da Fabrizio Roncone del Corriere, non ha voglia di ricordare i momenti insieme, i bei momenti, l'album dei ricordi. Non è il momento, mi creda, soffro troppo. E poi, insomma, si lascia andare in una serie di parole, un miscuglio, scrive Roncone, di stizza, delusione, dice di essere stato linciato e umiliato. Insomma, Bondi è stato il coordinatore del PDL per molto tempo, una figura, forse il numero due di Forza Italia dopo Berlusconi, per un bel po' di tempo. Poi, da quando c'era aria di patto del Nazareno e al numero due c'era spazio solo per Verdini, Bondi è stato emarginato, escluso, e adesso questa è la fine di un amore. Un amore che era molto intenso, scrive il Corriere, ricordando quello che diceva la moglie di Calderoli, la prima moglie di Calderoli, Sabrina Negri, disse di Bondi: sono sicura che se Bondi rinascesse vorrebbe essere Veronica. Quando però Veronica avverte preoccupata gli amici del marito e parla di vergini che si offrono al drago e si divertono per il divertimento dell'imprenditore, Bondi difende Berlusconi, racconta di non aver mai visto niente di scabroso a Villa Certosa in Sardegna, anzi l'unica situazione piccante, disse in quell'occasione, che gli era capitata era stata una cena al lume di candela in una notte tempestosa con Cicchitto, io e lui soli. Questo è Bondi, questo era Bondi. Torniamo all'Iran e insomma, vediamo, da qualche parte avevo segnato qualche intervista, qualche punto di vista su questo importantissimo accordo, che poi dovrà essere ratificato a giugno con un'intesa formale vera e propria. Partirà un periodo di ispezioni che però ha già alle spalle un lavoro di 2 anni circa, da quando c'è Obama presidente, un po' dopo insomma, e che poi sfocerà in un vero e proprio accordo, e la fine delle sanzioni arriverà soltanto in quel momento lì, la fine delle sanzioni per l'Iran. Il primo parere che vi riporto è quello di uno scrittore israeliano, Edgar Keret, scrittore, autore di Pizzeria Kamikaze, Gaza Blues, All'improvviso suonano le porte, sono alcuni dei suoi libri, libri molto retti in Israele, e lui dice: è una brutta notizia per Israele e il mondo questa intesa, non sono contento, credo che sia una brutta notizia per il mondo e per tutta Israele, non mi fido degli iraniani che non hanno mai rinunciato a sostenere gruppi terroristi come Hezbollah. È vero, se non mantengono gli impegni potranno sempre ripartire le sanzioni, ma non è un buon accordo. Mi consola soltanto pensare che senza un'intesa la situazione sarebbe stata peggiore. C'è da dire che l'Iran appunto non riconosce formalmente Israele, ma l'Iran che sì sostiene Hezbollah, adesso lo scacchiere è cambiato, perché Hezbollah che opera in Libano e che era considerato un gruppo integralista estremistico, adesso le cronache ci dicono che sta facendo la guerra all'ISIS, cioè si trova a difendere addirittura anche le popolazioni cristiane del Libano dall'aggressione dell'ISIS. Quindi lo scacchiere è in movimento, e in questo senso va forse letto anche questo accordo raggiunto a Losanna. Insomma, l'Iran non è più la cosa che ci spaventa di più nello scenario medio orientale. Andiamo sulla Stampa per trovare anche qua la fotonotizia. È una donna che esce dal tettuccio apribile di un'automobile, donna a volto scoperto con una bandiera iraniana, tutti sorridenti, con la V che indica insomma vittoria. La Stampa scrive: a Teheran esplode la festa, fra la gioia dei giovani e il trionfalismo degli Ayatollah, perché certamente questa soluzione viene dipinta, propagandata, espressa, così raccontata dal governo come una vittoria di Dio sull'America. Vengono intervistati però alcuni giovani iraniani che la pensano un po' diversamente. Dice questo giovane designer, disegnatore industriale di 34enne, Abelfazi: non vogliamo sfidare l'America, non vogliamo sfidare nessuno, non siamo pericolosi. Poi ancora, che altro? Dunque, qualche tweet, ecco sì, qualche tweet da parte di iraniani in queste ore. A Barack Obama dico grazie solo per aver consentito che tutto ciò accadesse al popolo iraniano. È fantastico, le cose cambieranno e tra pochi mesi andrà ancora meglio quando finiranno le sanzioni. Poi c'è qualcuno che si lamenta: però le 5.000 centrifughe sul nucleare ammesse sono troppo poche, con quel numero faremo giusto il succo di carote. Già, perché il succo, appunto, scusate il gioco di parole, il succo dell'intesa è questo, cioè la riduzione del potenziale nucleare iraniano del 60-65% circa. Il commento di un esperto delle Nazioni Unite, già capo dei controlli ONU nell'Iraq di Saddam, dice: l'intesa è buona, ma se il regime bara, gli ispettori non potranno scoprirlo. Quindi c'è anche qualche lacuna, secondo questo ispettore delle Nazioni Unite, che però dice: i dettagli tecnici sono molto positivi. Ad esempio, Teheran dovrà ridurre le centrifughe a 6.000 da quelle che aveva, e saranno del tipo IR1, dice questo ispettore delle Nazioni Unite. Una tecnologia vecchia e inaffidabile con cui non possono andare da nessuna parte. Anche se nel testo ci sono alcune incognite. La Casa Bianca dice che però è convinta di poter procedere proprio per la solidità delle verifiche sul campo che sono state fatte nelle centrali nucleari iraniane in questi anni. È un'illusione? Risponde questo ispettore delle Nazioni Unite: stiamo parlando di un lavoro enorme, lungo, senza precedenti. Come prima cosa l'Iran dovrà rivelare in maniera trasparente tutte le attività condotte finora, anche quelle militari segrete, ma se lo farà, e tra un paio d'anni le sanzioni verranno tolte, riusciranno poi a verificare le eventuali violazioni. E questo è il commento di questo esperto delle Nazioni Unite sull'Iran. Ci fermiamo un attimo per il traffico, torniamo tra pochissimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, in compagnia di Si può fare, stiamo dando un'occhiata, una breve rassegna stampa ai giornali di oggi, poi dopo il giornale radio inizieremo con i nostri approfondimenti, le buone notizie. Allora, qualche altro titolo in ordine sparso dei giornali. Intanto c'è il Sole 24 Ore che ci ricorda una cosa che non è una buona notizia, perché l'Italia, per quanto riguarda la ricerca, regala 2 miliardi ai partner dell'Unione. È proprio il titolo principale del Sole 24 Ore. Dal 2007 abbiamo perso 300 milioni all'anno, siamo ventesimi per progetti approvati, contribuiamo ai fondi europei per il 13%, ma recuperiamo solamente l'8%. Questo è proprio uno dei guai grossi dell'inefficienza, insomma, della nostra macchina amministrativa. Di chi è la colpa? Troppi progetti bocciati, scrive il Sole. Dei 41,5 miliardi europei del settimo programma quadro, cui l'Italia contribuisce con il 13%, abbiamo conquistato solo l'8,3%. Progetti bocciati vuol dire o l'Unione Europea è troppo severa, che non concede nulla, oppure questi progetti erano scritti male, chi lo sa. Comunque di questo si occupa in prima pagina del Sole 24 Ore, che poi dedica anche un titolo al benvenuto al nuovo ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, un ministero cruciale, importante, è arrivato Del Rio, che si è presentato ieri in bicicletta al ministero, tanto per far capire il suo punto di vista sui mezzi di trasporto. Ha detto: andare in bici a piedi è bellissimo, già, però c'è anche una riforma, questo lo dico io, del codice della strada, che dovrebbe tutelare proprio pedoni e pedali, che giace arenata alla Camera da alcuni mesi, al Senato anzi, scusate, dove dopo essere stata approvata alla Camera. Quindi su questo Del Rio però non ha ancora aperto bocca. Il titolo del Sole 24 Ore invece è sulle infrastrutture, piani rivisti, restano solo 49 opere strategiche, con la stretta diciamo delle disponibilità economiche della legge di stabilità, saltano la Orte Mestre e la Tirrenica. Sul tavolo di Del Rio ci sono priorità però per 80 miliardi di euro. Dicevamo, qualche titolo in ordine sparso, vediamo. Per esempio, Libero si occupa ancora della vicenda, l'inchiesta di Ischia, le casse di vino acquistate dall'azienda che faceva affari tramite corruzione, secondo i magistrati, a Ischia, e anche i libri acquistati, tutta proprietà di D'Alema, e il titolo è questo: quello che D'Alema nasconde sul vino. A Ischia, Baffino presentò le sue bottiglie, che il giorno dopo bagnarono la kermesse del Partito Democratico. Ci sono, secondo Libero, le foto del Brindisi con il sindaco arrestato. Il titolo principale di Libero però è dedicato alla verità sui conti dell'Italia: tasse e spese sono aumentate, crescita al palo, ecco quello che Renzi non osa confessarci. Ancora su Renzi, il Fatto Quotidiano, da un altro punto di vista, scrive così il titolo principale: la Coop, Renzi e i suoi boys, le carte su cene e affari, i carabinieri di Napoli. Simone, manager arrestato di CPL, il famoso consorzio appunto che lavorava a Ischia, aveva un canale preferenziale con il premier, il sottosegretario Lotti e anche il sindaco, futuro sindaco di Firenze, Nardella, che doveva cenare con i generali della Guardia di Finanza Dinolfi e Bardi, poi indagati, e anche il boiardo Fortunato. Sui finanziamenti della cooperativa svelati dal Fatto, la Meloni annuncia: li do in beneficenza. Palazzo Chigi invece tace, già, perché anche la Meloni ha ricevuto finanziamenti da questa stessa cooperativa. Il Messaggero scrive: la manovra evita l'aumento dell'IVA. Dal governo e linee guida del DEF, tagli di spesa per 12 miliardi per non alzare le aliquote IVA. La previsione di crescita ritoccata verso l'alto, e questo scrive il Messaggero. Il Giorno invece, il quotidiano nazionale, torna sulla notizia la bufera dentro Forza Italia. Berlusconi contro tutti, il cavaliere strapazza gli esuli, stiano zitti, l'ira di Bondi, miseria morale, esplode il partito, strappo in Puglia, il fittiano Schittulli, corro da solo. E poi c'è la fotonotizia dedicata a Graziano Del Rio, come dicevamo, neo ministro dei trasporti, il fenomeno Del Rio, lui in bicicletta, si vede che va senza mani. Del Rio in bici, si autocelebra su Twitter. Poi che altro? C'è un'intervista, insomma, un mini reportage del Corriere che vede protagonista Martelli, Claudio Martelli, perché la stagione di Tangentopoli. C'è una fiction su Sky che sta facendo discutere, 1992 di Stefano Accorsi, che ripercorre, insomma, l'epoca in cui si intrecciarono un sacco di vicende giudiziarie, con la nascita di Mani Pulite, l'avvio della vicenda politica di Berlusconi, la Lega, eccetera. E Martelli dice: in TV ho visto le verità del 1992. Cioè, Martelli dà un plauso, insomma, a questa fiction di Sky, dicendo che ci sono vari elementi, adesso non abbiamo il tempo, secondo i quali, per esempio, Di Pietro, che era ossessionato da Craxi, che cercava di dare la caccia a Craxi, oppure Di Pietro che non si fidava di Falcone, sono cose che secondo lui corrispondono alla verità. Quindi Martelli, che promuove la fiction 1992 di Sky. Siamo in chiusura, ci fermiamo qua, c'è il giornale radio, ci ritroviamo subito dopo con Si può fare. Apriremo anche il numero verde per sentire i vostri interventi, cari ascoltatori, 800 24 00 24. A dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. And no, I won't be no stick figure, silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Bass, bass, bass, bass. Buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. E buongiorno da Carlo Gabardini, buona prepasqua. Che vi stiate preparando per andare a lavoro? Che invece avete già in testa i bagagli da fare per andare in vacanza? Questa è Si può fare. Questa è Si può fare. Scusami, ho interrotto l'elenco. In effetti qua bisognava partire con un bellissimo elenco. Ti chiedo scusa. Avanti fino a domani. No, tanto quelli che vanno in vacanza sono pochi. Ho visto che restano tutti. Le previsioni sono quasi il 90% degli italiani a casa. Poi va in giro e c'è un casino. Restano tutti a farmi compagnia. Io penso che resterò a Milano, quindi. O forse vado a trovare mia mamma al lago. Adesso ci penso. Sotto la pioggia, Milano Monterosa oggi non tempo, piove ancora, c'era però, nuvoloso, da, però danno pioggerellina in arrivo, non in butta arrivo. Niente di bene, di buono, no, eh? no cari amici, 800 24 00 24 vi aspettiamo, così per stare con noi anche questa mattina per commentare quello che sentite. Tra poco parleremo di una scadenza, insomma il 31 marzo sono definitivamente chiusi, senza proroghe più o meno, ma lo scopriremo tra poco, gli ospedali psichiatrici giudiziari, i cosiddetti OPG, saranno sostituiti da residenze mediche per la sicurezza sanitaria, insomma un passo in avanti, un miglioramento, perché insomma da quando nel 2008 la commissione inchiesta sulla sanità guidata dall'allora parlamentare Marino, diventato poi sindaco di Roma, scoperchiò questo, insomma, scenari veramente terribili, si disse mai più condizioni quasi di detenzione, persone legate, persone senza cure mediche che avrebbero bisogno anche di cure mediche, eccetera eccetera. Ci siamo, chiudono definitivamente, però con una serie di sedi, ma anche qualche preoccupazione, perché ci sono anche persone che hanno commesso dei reati, sì, e vedremo e che cosa si chiede, che cosa sta succedendo, cosa sta succedendo. Questo poi, insomma, saluteremo anche l'arrivo dell'etichettatura con l'indicazione d'origine anche per le carni di pollo, di coniglio, no, il coniglio forse sai no? No. Il suino, insomma, trasparenza sulle carni, un fatto positivo per il Made in Italy, ma anche neanche l'agnello? L'agnello, sì. Siamo sì, a Pasqua. Sì. 800 24 00 24, poi giochiamo. Giusto, il gioco, il nostro gioco di questa settimana, vi chiediamo Che cosa vorreste dentro l'uovo di Pasqua? Sembra una domanda semplice, ma in realtà siamo a Si può fare, quindi chiediamo quale desiderio per il futuro, quale desiderio, non il portachiavi, insomma, esatto, per quello genere, quando il capita. Vostro Si può fare, diciamo, più tardi chiediamo il Si può fare in musica, adesso chiediamo il Si può fare in uovo. In uovo di Pasqua. La risposta che ci piacerà di più vincerà un weekend, un pernottamento nel AIA Agriturismo Cassinetta di Lugagnano, Comune Virtuoso. Siamo sempre in collaborazione con l'Associazione dei Comuni Virtuosi, che mette a disposizione questi premi. Aggiungo oggi, visto che è Pasqua, siamo generosi, la possibilità di vincere anche un altro premio: la cesta dei prodotti a base di asparago di Mezzago, con altri prodotti tipici locali di Mezzago, se rispondete a qualche domandina sulla, insomma, la nuova legge anticorruzione. Qualche domanda a sorpresa: cos'è la corruzione, esatto, cos'è la concussione, come cambiano le pene? Cambia soprattutto il nostro modo di fare le domande, cioè voi telefonate anche, sì, per l'uovo, per qualunque cosa volete vogliate intervenire durante la trasmissione, e Alessio a sorpresa vi farà delle domande, perché è informatissimo sulla legge anticorruzione, della quale invece io non so nulla. Bisogna sapere, si parla, i giornali sono pieni di cose sulla corruzione, ci si riempie la bocca. È molto cosa, giusto. C'è la nuova legge, deve ancora passare, insomma, uno e due rami nel Parlamento, però è stata approvata al Senato, allora facciamo il punto. Condivido, se siete condivido assolutamente. Vi portate a casa anche un altro premio. E poi promettiamo di non fare un Periscope, perché va detto, Periscope è questa nuova app di Twitter che è uscita pochi giorni fa. Ah, non ne sai nulla? Beh, tutti i nostri colleghi, spiega, anche radiofonici, tipo ieri ne ho fatta una con una nota trasmissione che non nomino, giusto? Non bisogna nominare le altre trasmissioni? Vabbè, l'ho fatta con Caterpillar, non posso dire. Abbiamo, perché loro fanno tutti i giorni un Periscope. Comunque, dicevo, è una nuova app per Twitter con la quale semplicemente premendo un tasto si è in streaming mondiale, quindi si è in onda in video e audio con tutti i propri follower, ovvero con chiunque abbia voglia di seguirti. E quindi stanno impazzendo tutti a fare questi Periscope, da Giovanotti a tutte le radio, a qualunque personaggio, ed è un po' la moda nel momento. Arriverà anche per Android, per il momento c'è solamente per iPhone. E insomma, per me è stata una settimana molto complicata anche da questo punto di vista, perché tutti mi dicevano devi fare dei Periscope. In più è stata complicata perché martedì, come abbiamo detto qui, è uscito il mio libro che si chiama Fossi in te io insisterei, quindi Ale, è tutta la settimana che passo dove ogni tanto mi chiamano delle persone, magari dei miei compagni di scuola, delle mie compagne di scuola che non sento da 10 anni. Vabbè, insomma, dovresti essere felice, no? Ma sono felicissimo. Poi passerà questo momento, e poi non credere che sarà sempre così, esatto, tutta gloria, esatto. Goditela. No, io voglio insistere, giustamente il libro si chiama Fossi in te io insisterei, quindi 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi aspettiamo. Adesso andiamo ad iniziare, vai. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of. Diamo il buongiorno e il benvenuto a Stefano Cecconi, coordinatore della campagna Stop OPG. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Stop ospedali psichiatrici giudiziari. Ho detto la scadenza era il 31 marzo. C'erano state in passato diverse proroghe. Intanto c'è stata qualche altra proroga oppure siamo veramente arrivati alla fine degli ospedali psichiatrici giudiziari? Quante strutture sono in Italia? 7, se non sbaglio. 6. 6. Sono 6, Castiglione delle Stiviere, Montelupo Fiorentino, Reggio Emilia, Napoli, Aversa, Barcellona, Pozzo di Gotto. E quindi questa scadenza è stata rispettata? La scadenza, diciamo, è stata rispettata nel senso che non c'è stata proroga, uh-huh, che era quella che temevamo di più. Una proroga che avrebbe spostato di un altro anno ancora la chiusura, l'avvio del processo di chiusura. Sì. E sarebbe stato un disastro, perché questo è già successo negli anni passati e nel periodo tra una proroga e l'altra non si è fatto praticamente nulla. Questa volta invece il fatto importante è che il governo, il Parlamento, la pressione delle forze anche del nostro comitato, hanno impedito questo rinvio, il che non vuol dire che tutto sia risolto, perché infatti ancora negli OPG rimangono parecchi internati, i trasferimenti stanno avvenendo gradualmente. Noi abbiamo detto una buona notizia, un passo in avanti nella cura, nel trattamento di quante persone parliamo stavano negli OPG, Cecconi? In questo momento ci sono meno di 700, 698 censiti, sono 623 uomini e 75 donne. Un passo in avanti perché insomma, quando torniamo all'epoca in cui la Commissione Marino scoperchiò questa realtà, insomma, per chi non la conosceva, gli addetti ai lavori già la conoscevano, ma in alcune di queste strutture era anche difficile entrare, si disse mai più una cosa del genere. Vogliamo ricordare questo percorso? Perché dobbiamo salutare come una buona notizia questo passaggio? Poi parleremo anche delle sfumature, di cosa cambia nelle nuove residenze, eccetera, eccetera. Perché sono ancora l'ultimo baluardo della logica manicomiale e che hanno però contengono in sé il peggio del manicomio e il peggio del carcere. Sono istituzioni totali in cui si pratica il regolamento detentivo senza nessuna deroga, a parte qualche fatto particolare, e si sono trasformati, come tutte le istituzioni totali nel tempo, in luoghi anche orribili a viversi. Nel senso che il degrado ha caratterizzato molte di queste realtà, non solo per il sovraffollamento, ma proprio per la concentrazione di persone con problemi psichici gravi in alcuni casi, che ovviamente non potevano avere nessuna speranza di cura e nemmeno di rispetto della propria dignità in situazioni del genere. E soprattutto non c'erano medici, o abbiamo capito male, nel senso che in alcune c'era un medico per 350 detenuti, che mi sembra anche meno di quello che può servire anche semplicemente per dei detenuti con raffreddore. Ma questo senza dubbio, ma questo è ovvio, ma è evidente che in luoghi così non può che accadere questo. Ma anche nella situazione che poi eventualmente tratteremo, che ha avuto un'altra evoluzione, Castiglione delle Stiviere, anche lì tuttavia la vera questione di fondo è che sono manicomi. Sì, perché cioè diciamo una cosa, l'ha accennato lei, Castiglione delle Stiviere, provincia di Mantova, è stata una delle poche strutture a cui diciamo era stato riconosciuto quantomeno rispetto di una serie di criteri come dire, di ordine igienico, sanitario e anche di rispetto delle prescrizioni esistenti, quindi una struttura che in qualche modo avrebbe anche potuto continuare ad esistere, però anche lì avverrà il passaggio verso queste nuove residenze mediche che dovranno garantire la sicurezza sanitaria. Diciamo, semplificando, per chi non è addetto ai lavori, non conosce il mestiere, si passa diciamo dalla prevalenza di sicurezza con limitazioni della libertà e coercizione ad un concetto diciamo di cure sanitario. È questo il passaggio, come si declinerà? Ce lo vuole raccontare? No, questo è quello che appare, diciamo. In realtà la cosa è più profonda, per fortuna, cioè l'operazione, il processo che sta avvenendo, la riforma, chiamiamola così, che sta avvenendo è più profonda, perché la nuova legge sugli OPG ha superato l'idea che l'unica alternativa siano le residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza, queste REMSE, che sono una possibilità. Ma il grosso dell'operazione punta alla presa in carico delle persone negli OPG nel territorio, nei servizi del territorio. Questo vuol dire spingere per le dimissioni delle persone che sono dimissibili, naturalmente decide sempre il magistrato, cioè l'ultima parola spetta al magistrato, perché sono comunque autori di reato, pur pazienti da curare, malati e così via, ma sono autori di reato e quindi deve essere il magistrato che dispone la dimissione, che è una vera e propria scarcerazione poi. E si attiva la misura alternativa alla detenzione come per i detenuti comuni che stanno male, che sono malati. Questa possibilità era impedita fino a che è intervenuta due sentenze della Corte Costituzionale che ha stabilito che era illegittimo non curare con misure alternative un internato, tanto più dopo l'approvazione della riforma Basaglia. Ma dicevo, questa legge punta decisamente a dimettere gli internati, a prevenire i nuovi ingressi. Si dice che l'internamento in OPG e REMS deve essere la soluzione eccezionale quando non c'è la possibilità di procedere diversamente. Perché? Perché la 180 della riforma Basaglia ha insegnato che è il territorio, la comunità, il luogo del recupero dell'inclusione vera. Sì. Poi ci sono queste REMS, poi ci sono le REMS, ci saranno casi in cui è necessario tenere insieme situazioni di custodia con un tentativo di recupero, di cura, tenendo conto che essendo luoghi in cui si esegue la misura di sicurezza detentiva, chiusi, per quanto più piccoli, per quanto regionalizzati, hanno sempre un handicap molto più grande rispetto ad altre comunità. Mm. Chi ha cominciato a visitarli capisce subito, io ne ho viste alcune, sì, come ho visto gli OPG, che sì, è sempre meglio che un postaccio, sempre meglio che un luogo sovraffollato e sporco, sempre meglio così che quello che succedeva in alcune realtà, ma diciamo che hanno un handicap, faranno fatica ad associare davvero cura e custodia, perché il fallimento c'è stato. Dopodiché, senta, c'è un problema di sicurezza che non può essere mai, ecco, esatto, per chi perché qualcuno ha sollevato dei dubbi, chi addirittura dei veri e propri allarmi, ci saranno persone pericolose in giro per le strade eccetera eccetera, dal punto di vista della sicurezza delle persone, perché dobbiamo ricordare che tra questi, diciamo, persone che stavano agli OPG c'erano anche persone che avevano commesso dei reati anche violenti, cosa cambia e si rischia qualcosa davvero o no? Ma certo che no, ma è ovvio che no, a parte che ci vuole la dovuta attenzione, nessuno deve essere abbandonato o scaricato per la strada, ogni persona va presa in carico in un percorso, chi avrà bisogno di situazioni più strette e chi invece potrà essere accompagnato in questo suo percorso di recupero. Ma il punto è questo qui, dal 2011 ad oggi gli internati sono calati, erano 1400 nel 2011, sono meno di 700 adesso. Non vuol dire che sono uscite centinaia e ne sono entrati altri al loro posto. E come mai sono calati? Sono calati perché c'è stata un'attenzione dopo la denuncia della Commissione Marino e dopo appunto l'inizio di questo percorso che ha portato anche da parte dei magistrati a maggiore attenzione. Cioè sono stati messi in altre strutture o sono stati dimessi quelli che non necessitavano di cure psichiatriche? Dimessi accompagnati, non c'erano le REMS evidentemente, certo. Dimessi accompagnati in servizi di cura di comunità, e questo dimostra che è successo, si è dimezzata la presenza degli OPG, in realtà quindi gli OPG sono già stati dimezzati in questi 3 anni, 4 anni, e non è successo niente, niente di, come diceva Basaglia, all'atto della chiusura dei manicomi, tutti si aspettavano di vedere cose terribili e non successe nulla. Ora ci sono casi in cui però è giusto avere la massima, sì, attenzione, sono casi limitati, e peraltro io sono tranquillo perché alla fine è comunque il magistrato che giustamente decide la sorte di queste persone in base alla condizione di pericolosità sociale che dovesse sussistere. Ma parliamo di casi davvero limitatissimi, tanto più che c'è una quota di internati che ha commesso reati gravi, ma oltre il 60% ha reati minori, addirittura reati bagatellari, eppure si stava dentro per anni e anni. E soprattutto non bisogna poi mai confondere il disagio mentale con la criminalità, perché in questo caso, proprio perché si trattava di strutture con misure restrittive, c'erano molte persone che avevano commesso anche dei reati, ma è più in generale là dove ci sono dipartimenti della salute mentale o residenze che assistono queste persone, bisogna fare l'equivalenza con la criminalità. Assolutamente, era giusto comunque sottolineare questo passaggio, ne parleremo ancora, vedremo come andrà a finire, perché questo è un aspetto importante, insomma, del nostro sistema sanitario, riguarda molte persone. Grazie per essere stato con noi intanto, Stefano Cecconi, buona Pasqua naturalmente. Grazie mille, buon sabato. Grazie. E lui era il coordinatore della campagna Stop OPG. La scadenza il 31 marzo, chiuse queste 7 strutture in Italia, adesso si apre un capitolo nuovo nell'ambito del disagio mentale. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi aspettiamo anche con i vostri desideri personali e generali e pasquali. Per le uova. Per le uova. Quello che sperate di trovare dentro l'uovo in senso lato. E anche qualche domandina sulla corruzione, si vincono anche degli altri premi. A tra poco, 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Cari ascoltatori, 800 24 00 24, vi aspettiamo per commentare intanto quello che avete sentito fino ad ora, cioè l'intervista sulla chiusura degli OPG, era un desiderio che si è avverato, poi per raccontarci, insomma, cosa vorreste trovare voi come sorpresa positiva nell'uovo di Pasqua. Tu, Carlo, cosa vorresti trovare? Ma io intanto ti leggo un tweet che è arrivato da Tonio Monda, che dice: nell'uovo di Pasqua vorrei un uovo di Pasqua. che mi sembra un bel esempio della crisi che stiamo vivendo. Dice, intanto era una cosa rassicurante, almeno che ci sia l'uovo di Pasqua, ci sia l'uovo, giusto. Io vorrei in trovare... realtà era un progetto matrioska, era tipo bambole russe, uovo. Esatto. Io vorrei trovare bel tempo, visto che vado un paio di giorni in campagna dai miei. Ah, giusto. Ma forse lì oppure sai cosa tempo. Vorrei trovare io? Che approvino questa benedetta legge anticorruzione, che c'è il presidente del Senato Grasso che sta tenendo il conto da quando non la approvano, che sono quasi due anni. Anche perché tu sei ferratissimo. Facciamo un appello, approvate questa legge che Alessio Maurizi la sa a memoria, conosce tutti, anche nei gangli più incredibili di questa legge, che infatti se telefonate vi farà delle domande straordinarie, e quindi secondo me va approvata anche solamente per ringraziare Alessio. E se rispondete correttamente vi portate a casa anche un bel premio. Giuseppe da Bari, buongiorno. Buongiorno, buona Pasqua a tutti. Anche a lei. Grazie. Su cosa voleva intervenire? Volevo intervenire sull'uovo di Pasqua. Bene. Il mio desiderio è quello di vedere sparire l'ISIS, vedere che provoca tante morti nel mondo. Cioè aprire gli occhi il giorno di Pasqua e dire è stato un incubo, non è mai esistito l'ISIS. Saremmo tutti felici che non ci fossero questi tagliagole. Sì. In effetti. Senta, gliela posso fare una domanda sulla corruzione? Sa che stanno approvando la legge anticorruzione? Senta, anche quello vediamo, è un grosso problema. Le faccio la domanda. Se lei sa rispondere, si becca anche un premio. Allora, come cambia la pena per il reato di corruzione? Era da 1 a 5 anni nel vecchio ordinamento. Adesso con la nuova legge come cambierà? Quanti anni sono? Io mi ricordo la rivoluzione francese, quando c'era la grande corruzione, la ghigliottina risolveva tutto. La ghigliottina per la corruzione fosse un po' esagerato. Lei fa come quelli che a scuola, quando non sapevano rispondere, partivano dalle guerre puniche per arrivare poi dopo chissà dove. Vabbè, non lo sa. Grazie Giuseppe, lo stesso. Grazie. Buon sabato, grazie. Buon sabato santo. Ci abbiamo un ascoltatore che si chiama Santo da Como, è giusto? Infatti per quello che c'è un buon sabato santo. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buon Pasqua a tutti in anticipo. Grazie. Ed è una bella sorpresa per i familiari la chiusura degli OPG. Sì, giustamente. Però c'è da tenere controllati che i delinquenziali devono andare in galera, non possono stare... No, i delinquenziali sì, o in galera, oppure se soffrono di disturbi mentali... Che ci sono pure il 40%, quello che sia, non lo so. E poi non so se si siano abbassati anche i costi per quanto riguarda per assistere nelle comunità questo tipo di pazienti. No, abbassati i costi non credo, perché aumentato perché giustamente devono creare l'ambiente adatto, quindi ci eccetera, capisci? Tratta di malattie che vanno curate comunque, quindi è giusto insomma che ci sia una spesa da parte del sistema sanitario. Oltre a curare vanno seguite, perché non basta solo la cura dei farmaci, perché è importante seguirle, giusto, da persone molto esperte eccetera eccetera, no, da extracomunitari straniere che si mettono a volte nelle comunità, che abbiamo anche tanto personale italiano che è in grado di la differenza non è fra gli stranieri e gli italiani, giustamente è fra coloro che sono preparati. Devono perfezionare la lingua italiana, che è importante. Bravo. Sì, beh, anche alcuni italiani devono perfezionare la lingua, direi. Santo, ma lei che lavoro fa? Santo. Lei che lavoro fa? Il muratore. Ah, pensavo che lavorasse in una residenza sanitaria, no. Va bene, Santo, grazie. Grazie mille. A lei, buongiorno. Arrivederci. Ho fatto la domanda sulla... Vabbè, il prossimo ascoltatore gliela facciamo dopo. 800 24 00 24. Facciamo il traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Hey, c'è Carlo che sta ballando al ritmo di questo country. Sto andando a cavallo adesso. Il fatto che io non riesca a fare delle figure plastiche di tuo interesse è però stavo andando sul mio cavallino. Per fortuna che non ci vedono dalla radio. Allora, da dove vieni e dove vai, dice questa canzone? Ed è proprio, insomma, l'intento che si pone il nuovo sistema di etichettature previsto da una, insomma, direttiva europea, un regolamento europeo che è entrato in vigore qualche tempo fa, ma che adesso è diventato operativo e che riguarda le carni suine, ovine, caprine e pollame. Giusto che ci sia trasparenza su queste etichettature, giusto anche e soprattutto per il nostro Made in Italy. Ne parliamo con Maria Letizia Gardoni, che è delegato nazionale Coldiretti Giovani Imprese. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Che ritroviamo, l'avevamo conosciuta qualche tempo fa, che ci aveva raccontato tra l'altro la sua storia di giovane, insomma, imprenditrice che ha cominciato da quanto ad avere un'azienda agricola? Ho iniziato nel 2009. Mm-hmm. Facendo sì. Anche tutto, abbiamo parlato anche della parte in cui hai fatto l'investimento, perché non tutti i nuovi giovani agricoltori hanno la terra della famiglia, c'è anche chi se la compra, come esattamente. C'è chi non eredita nulla e per cui si ritrova a costruire un'impresa completamente da zero. Si deve imboccare le maniche, esatto. Avevo raccontato la mia esperienza, insomma, ma anche di tutti quei giovani che oggi stanno investendo nel settore primario. Io ho preso questa notizia, che in realtà avevamo trattato anche noi tempo fa, quando era stato approvato appunto questo provvedimento in sede europea, però ho capito che entrava in vigore adesso proprio leggendo un tuo post su Facebook, che hai detto: oh, finalmente una buona notizia. Perché? Sì, questa è assolutamente una buona notizia, perché dal 1 aprile 2015, quindi due giorni fa, è entrata ufficialmente in vigore la nuova etichetta che impone di indicare appunto o il luogo di origine o il luogo di provenienza delle carni, in questo caso suine, ovi, caprine e volatili. Diciamo che è un percorso di trasparenza che Coldiretti ha iniziato circa 15 anni fa e che in questi 15 anni, diciamo, ha toccato diversi prodotti agroalimentari, ma restavano, diciamo, fuori da questo percorso di trasparenza appunto i prodotti che vi ho appena elencato. Con la nuova etichettatura è possibile indicare quindi o il luogo di origine, se l'animale è nato, allevato e macellato nello stesso paese, quindi se troviamo una confezione di, ad esempio, carne suina con scritto origine Italia, questo significa per il cittadino che si appresta a acquistare il prodotto che quell'animale è nato, cresciuto, allevato e macellato in Italia. Diversamente si può indicare il luogo di allevamento e di macellazione, sì, ma non l'origine nel caso in cui l'animale abbia, diciamo, vissuto queste fasi in paesi diversi. Ma perché non si può? Questo forse è una pecca, una carenza, cioè nel caso in cui appunto l'origine e l'allevamento non coincidano, non è obbligatorio mettere dall'origine dell'animale. Perché questo? Questo ancora non è possibile, io la motivazione, insomma, non si sa. Diciamo che comunque questo passaggio che si è ottenuto, questo obiettivo, questo raggiungimento dell'obiettivo è comunque un risultato molto importante. Quello che il consumatore oggi può sapere se comunque l'animale, il prodotto che va a acquistare è effettivamente un prodotto 100% italiano o meno, e credo che sia comunque un ottimo risultato. Per cui diciamo che ad oggi è possibile per questi prodotti avere una carta d'identità che non permetterà più a confezioni anonime di circolare nei supermercati e di arrivare sulle tavole degli italiani. Questo per tutti i tipi di carne o c'è qualche eccezione? No, questo del che è entrato in vigore pochi giorni fa appunto riguarda queste tipologie di carne, quindi suine, ovi, caprine e volatili. Per quanto riguarda invece la carne, ad esempio carne fresca di bovino, la etichettatura d'origine è già obbligatoria da diversi anni, mi pare dal 2002, dopo che c'era stato lo scandalo e l'emergenza della mucca pazza. Certo. Esatto, ci sono ancora dei prodotti per cui Coldiretti appunto sta ancora continuando a portare avanti questo percorso di trasparenza e di tracciabilità, che riguarda alcuni alimenti che possiamo velocemente elencare in modo, insomma, di rendere consapevoli e informati i consumatori. Che riguardano i derivati dei cereali, per cui pane e pasta, la carne di cavallo e di coniglio, che ancora non hanno l'obbligo di indicare l'origine in etichetta. Chissà perché la carne di coniglio non ha questo obbligo. Chi lo sa? Perché i conigli saltano, scappano. Probabile. Poi finisco un attimo l'elenco, poi magari torniamo su questo punto. I trasformati di frutta e verdura, i formaggi, il latte UHT, i sughi pronti e soprattutto importante i salumi. In questo caso diciamo che è un passaggio importante da fare dopo l'entrata in vigore dell'etichettatura d'origine per la carne fresca di suino. È importante però andare anche a muoverci nel contesto del trasformato del suino, per cui tutta la filiera del salume, dei trasformati, degli intaccati, che ancora ad oggi non prevedono l'obbligo di indicare l'origine. E questo è proprio, diciamo, proprio tra l'altro in Italia, dove dovremmo essere diciamo un po' la patria una serie di prodotti questo vale per i trasformati. Quindi facciamo un esempio, cioè la mortadella. Esattamente, che è un prodotto tipicamente italiano, tra l'altro, e credo che sia uno dei prodotti più noti al mondo, perché è una parola conosciuta ovunque. Sì. Però non c'è obbligo di tracciabilità, per cui uno potrebbe produrre la mortadella in Italia con cose che vengono, che ne so, dalla Bulgaria, sparo a caso, perché non ne so nulla. Sì, sì, sì, esattamente, ma questo può valere anche per i prosciutti. Ad esempio, purtroppo in Italia 2 prosciutti su 3 che andiamo a consumare non sono italiani, ma sono prosciutti stranieri. E questo è preoccupante, soprattutto due prosciutti su tre. Ma sono stranieri perché costano meno quei maiali o per altri motivi? Non ditelo a Salvini che sono stranieri sti prosciutti. No, sono maiali, sono prodotti stranieri, cioè entrano diciamo che l'animale viene allevato e macellato al di là dei confini nazionali, poi una volta varcati questi stessi diventa magicamente italiano. La preoccupazione è che ovviamente questo ha delle ripercussioni importanti a livello ovviamente economico ed occupazionale per quanto riguarda il paese Italia, ma soprattutto ci sono anche delle preoccupazioni in merito alla qualità e alla sanità, alla salubrità dei prodotti. Certo. In altri paesi europei, come ad esempio la Germania, da cui purtroppo molti prodotti vengono importati e diventano magicamente made in Italy, si seguono dei disciplinari sanitari che nulla hanno a che vedere con il rigoroso diciamo disciplinare che è invece in vigore. Poi, insomma, io dico questo. Germania è meno che da noi, i controlli sono meno che da noi. Sono minori, sono meno efficaci. E in Germania sono permessi delle tipologie di allevamento con tipologie di prodotti che in Italia sono assolutamente. Poi, insomma, la trasparenza deve, io credo, vincerla su tutto. Cioè, ogni produttore può decidere di fare la mozzarella con dei semi lavorati che vengono dalla Danimarca, va benissimo. Ma che ce magari lo dica. È buonissima, è meglio addirittura della mozzarella di bufala fatta in Campania, però basta saperlo. Poi il consumatore sceglie, o magari anche no, perché non tutti poi guardano le etichette attentamente, c'è anche questo aspetto. Però scriverlo, questo mi sembra che sia incontestabile. Ci stiamo arrivando piano piano, però è sempre l'Europa che ci spinge, Maria Letizia, perché non è che siamo proprio noi italiani, che ci stiamo lavorando. Guardi, ci stiamo lavorando. Allora, le ripeto, Coldiretti è da 15 anni che fa questa battaglia per la tutela del Made in Italy e i risultati si sono raggiunti, si stanno raggiungendo, e altri ancora sono da raggiungere, da portare a casa. Però è vero che comunque il cittadino, il consumatore italiano ha una grande sensibilità in merito alla provenienza o comunque alla trasparenza e tracciabilità del prodotto agroalimentare italiano. Ad esempio si è conclusa pochi giorni fa una consultazione pubblica online in merito all'etichettatura dei prodotti agroalimentari. Hanno partecipato a questa consultazione, che è durata 5-6 mesi, quasi 30.000 cittadini, e il 96,5% di questi 30.000 cittadini ha ritenuto che sia necessario che l'origine del prodotto agroalimentare debba essere riportato in etichetta in modo chiaro e leggibile. Per ma cui chiaro, c'è una grande sensibilità. Se lo chiedi al consumatore sono quasi tutti d'accordo. Benissimo, intanto noi salutiamo questo passaggio, le etichette sulle carni con l'obbligo di portare anche l'origine. Grazie e buona Pasqua anche voi, a te Maria Letizia Gardoni. Grazie. Buona Pasqua. Grazie. E va bene, poi è bello sapere che ci sono dei ragazzi così che hanno avviato attività nel mondo dell'agricoltura, imprese, insomma, come Maria Letizia. 800 24 00 24, c'è Giulia che ci chiama da Caserta. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Sento un poco, io nel mio uovo di Pasqua vorrei una sorpresa particolare. Sì. Cioè che queste signore dell'899 mi lasciassero libero il mio numero di telefono. Chi? Le signore dell'899? Sì, sono la Tiziana, la cartomanzia. Che io la mattina non posso accendere il telefono se non arrivano questi suoi messaggi. La chiamano i cartomanti, la chiamano? Sì, Sì, cartomante e l'ottologo. Ma come mai chiamano loro? Non dovrebbe essere lei a chiamare? Non so il mio numero di telefono, come l'hanno avuto, dove l'hanno preso. Anche questa è una bella domanda. Forse pensano che sia una cartomante anche lei, chiedono consigli. No, forse pensano che io devo sono una giocatrice, ma a me questi messaggi mi danno. Ma lei in passato ha giocato? Ma no, non ho giocato mai. Chissà come hanno avuto il mio numero, e quindi io vorrei che questo numero che vi ho dato in privato voi la contattaste e gli direste di lasciarmi in pace. Ah, vuole che lo facciamo noi al suo posto? Non lo so perché non so lei dove sta, cosa fa, che non so come rintracciarlo. Giulia, lei ha ragione, ha tutta la nostra comprensione su questo aspetto qua. È vero, io a casa mia al numero quasi non rispondo più, perché mi chiamano solo cartomanti, no, operatori che mi propongono cose, ovunque. 800 24 00 24, ancora il numero verde. Tra poco riprendiamo insomma col programma, aspettiamo i vostri interventi, la vostra cosa vi aspettate, la vostra sorpresa nell'uovo di Pasqua, e poi cos'altro avremo Ercolini e le domande a sorpresa di Alessio Maurizi sulla legge anticorruzione. Esatto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ma cosa ci faccio di questo tuo amore macrobiotico, magnetico, domotico? Se ogni tuo sguardo, tuo gesto mi rende nevrotico, va bene alle ossa, alle vene. Di notte io dormo agitato e poi sogno le iene. Persone per bene. Mi sveglio e mi sento infelice. E tu già truccata da te. Distante nella tua bellezza, da ogni mia carezza. E sogno mani che sanno impastare, bocche a cui piace mangiare, fianchi morbidi da carezzare. Questa è Si può fare, questa che avete appena ascoltato è Amor macrobiotico. Fa ghignare, Sì, è di Aurelio De Laurentiis, che è un nostro ascoltatore, che ha composto questa canzone, che descrive in chiave ironica un rapporto di coppia minato da diete e salutismo. Non è il presidente del Napoli, Non è il presidente, è un omonimo, si è presentato così. Non sappiamo se sia un nome d'arte, però quello che vogliamo dirvi è, a parte che oggi è Pasqua, quindi si mangia, forse oggi, no, Pasqua è domani comunque. Andiamo per ordine. Per Pasqua mangiamo tranquillamente. Tranquilli. Però se scrivete una canzone che per voi significa si può fare, vi chiediamo di mandarcela. Oppure se non siete dei compositori, se non siete dei cantanti, potete anche segnalarci delle canzoni note e famose che per voi significano si può fare. Le potete mandare al nostro indirizzo di mail, cioè al nostro Facebook, che è si può fare trattino radio 24, oppure all'account Twitter che è @si può fare 24. Oppure i nostri account personali, il mio è @CarloGabardini e il mio è @AleMaurizzi. Allora, cari ascoltatori, 800 24 00 24, questa mattina vi aspettiamo per commentare. Insomma, siamo partiti dalla notizia della chiusura dell'ospedale psichiatrico giudiziario, una buona notizia perché è un passo in avanti nel trattamento di queste persone, ma anche dalla nuova tracciabilità nelle etichette delle carni, una notizia che abbiamo commentato con Maria Letizia Gardone di Coldiretti, perché insomma era giusto che si facesse anche questo passo per quanto riguarda la trasparenza nel settore alimentare italiano proprio nell'anno di Expo 800 24 00 24. Ma c'è anche il gioco, Carlo, ricordiamo che il noi gioco aspettiamo è che noi aspettiamo vostre telefonate nelle quali dovete dirci che cosa vorreste trovare nell'uovo di Pasqua, sia in senso pratico sia in senso lato. Abbiamo avuto Giuseppe da Bari che voleva la fine dell'ISIS, cioè svegliarsi domenica e pensare che è stato tutto un incubo, oppure Tonio Monda che ha detto sì, voglio un uovo di Pasqua, dentro basta. L'uovo di Pasqua, è dentro un altro uovo di Pasqua, un altro oppure uovo, Giulia, a un certo punto una gallina forse. Giulia da Caserta che voleva che non la chiamassero più le cartomanti dell'899, mi sembra che abbia ragione. Cari ascoltatori, invece voi chiamateci all'800 24 00 24. Giovanna da Verona, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io vorrei tanto che tutti i disoccupati trovassero nel loro uovo di Pasqua un contratto di lavoro. E lo vorremmo anche noi. Attenzione però ai dati, perché c'è stata una polemica. Tutti i nuovi contratti di lavoro, ci sono più posti di lavoro. Poi il governo ha chiarito, si tratta in molti casi di contratti a tempo determinato che diventano a tempo indeterminato e quindi non sono nuovi posti di lavoro, ahimè, ma sono trasformazioni di contratti, sebbene positivamente in tempi indeterminati. Volevo quindi solo speriamo precisare nella Pasqua questo, sì, speriamo nella Pasqua. Contratti Giovanna a tempo indeterminato, grazie. Voleva aggiungere qualcosa? Le posso fare io la domanda sulla corruzione? Lei lo sa il reato di corruzione, le nuove pene previste dalla legge? Guardi, non ho ancora letto, non ho ancora studiato sera. Però io sa che cosa farei? Sì. Non li metterei in prigione, gli porterei via tutti i soldi e li farei lavorare è previsto con la pensione minima. È previsto la restituzione del mal tolto, questo è previsto. No, la signora secondo me aveva un progetto più ampio e più interessante, era portare via tutti i soldi, metterli a lavorare con la pensione minima. Mi sembra un progetto da trovare nell'uovo di Pasqua. Sì. Grazie, grazie Giovanna. Esatto, un uovo piccolissimo. Grazie. Andiamo con chi andiamo? Fabio da Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Senta, io intervenivo riguardo ai prosciutti che la signora ha detto l'altra sera. Io faccio ristoratore. Sì. Allora, ha detto intanto due prosciutti su tre sono finti prosciutti italiani, finti prosciutti perché italiani in realtà sono animali allevati all'estero. Tanto però, due su tre. Però bisognava specificare la cosa. Sì. Sì. Allora, ci sono due prosciutti su tre che sono dall'estero, ed è vero. In quanto in Italia ci consumano 40 milioni di prosciutti e la produzione massima che il nostro paese può dare sono attorno ai 12-13 milioni di cosce. Ah, quindi c'è poco da fare, lei dice. È così? No, detto questo, ci sono però due consorzi, uno del San Daniele e uno del Parma. Come no? I quali hanno un protocollo molto rigido, bisogna specificarlo questo, che quindi sì, quando uno mangia un San Daniele o mangia un Parma, il protocollo del San Daniele e del Parma, gli unici due prosciutti, sì, prevedono un protocollo che, dove c'è un consorzio formato da... Ma guardi, però la fermo subito, perché quelle regole lì sono se le autoimpongono i produttori del consorzio, non è una legge che li obbliga. Scusi un attimo, il consorzio che è composto da produttori, sì, macellatori e distributori. Sì. Va bene, qual è la regola? E la regola è che i maiali devono essere rigorosamente allevati in Italia, sì, nel rispetto delle normative italiane per quanto Fabio, va bene, ma questo per dire che cosa? Scusi, per dire che cosa? Dove vuole arrivare lei? Per dire che non si può dire che tutti i prosciutti c'è una distinzione, perché ci no, sono questi due marchi. Ma guardi che lei non ha detto questo, okay. Lei non ha detto questo. Lei ha detto che ci sono due terzi dei prosciutti che circolano in Italia che non sono italiani, ma che non c'è una legge che obbliga sui trasformati delle carni suine a dire in etichetta da dove derivano. Poi che lei mi dica che il consorzio di San Daniele lo fa, questo perché loro hanno deciso giustamente di imporselo, ma è una regola loro, non è una legge. Quello che si auspica è che ci sia proprio una legge che prevede questa trasparenza. Ma lei è un esperto dei prosciutti dei consorzi? Perché la cosa che mi chiedo è che mi sembrava che anche per il prosciutto San Daniele di Parma si diceva che comunque i prosciutti sono di più dei maiali che loro possono avere, non è così? No, io parlavo di 40 milioni di prosciutti e capito che vendevano per esempio la pizzeria. Chi fa la pizzeria non va certamente a mettere il prosciutto crudo di Parma o di San Daniele, che costano il doppio rispetto ai prosciutti che vengono dall'Olanda, che stanno di pesce, oppure quelli che vengono dalla Germania, capito? Perché vengono alimentati con farine di pesce e quant'altro. Senta, Fabio, lei ce l'ha un desiderio che vuole una sorpresa per l'uovo di Pasqua? Vuole partecipare o ci salutiamo qua? ma io faccio gli auguri a tutti di Pasqua, capito? Volevo solo specificare. Giusto, grazie. No, grazie. Giusto, giusto, buona Pasqua, giusto. Auguri, perché noi aspettiamo anche questo dagli ascoltatori. Che facciamo? Noi un altro? No, facciamo il traffico, ci risentiamo tra pochissimo. Si può fare, si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti. Sai che a Bergamo in questi giorni inizia un progetto pilota per cui si può pagare solo con carta di credito e con Bancomat? No, non sapevo. Ci sono una decina di persone che stanno facendo questo esperimento pilota. Da maggio tutti i cittadini della città di Bergamo, in una serie di negozi, la maggior parte, potranno pagare solo non col contante. Cashless City si chiama questo progetto. Speriamo che ci sia molto campo, perché ieri ero in una pizzeria, volevo pagare col banco, mi hanno detto la linea è interrotta in questo momento, ed è stato il panico perché tutti con in mano i propri bancomat abbiamo iniziato a dire allora cosa facciamo, andiamo a fare un bancomat, paghi tu, poi io ti ridò i soldi. Tra poco parleremo di monete alternative, prima però sentiamo ancora un ascoltatore che è in linea, Gaetano da Caserta, buongiorno Gaetano. Buongiorno. Prego, sì. Buongiorno. Su cosa voleva intervenire Gaetano? Volevo fare un'integrazione a quanto riguarda il signor Stefano Piccone in mattinale, per quanto riguarda questa chiusura, no? degli OPG. Essendo, sì. Essendo un operatore infermiere professionale transitato già dal Ministero di Giustizia in quanto vincitore di un concorso, e diciamo dalla sera alla mattina ci hanno passato a questi servizi di sanità nazionale per migliorare. Ha perso il posto lei? No. No, non è che ho perso il posto, però al momento mi trovo dopo 15 anni di sacrifici enormi affrontati in queste strutture. Sì. Come cosa deve fare? Cambiare lavoro? Adesso attualmente ci hanno detto sempre dalla sera alla mattina di inviarci in queste famose REMS oltre 50 km dalla sede di lavoro. Ah, quindi lei deve andare in un altro posto. Affrontare alla famiglia danni psicologici, morali soprattutto. Però pensiamo anche invece ai danni psicologici proprio per i parenti delle persone che stavano negli OPG, che erano solo 7, le residenze saranno molte di più sparse sul territorio, più piccole. Sì, soprattutto erano quindi 390 messi tutti in un unico posto, quindi con un per unico loro medico. I disagi diminuiranno. Lei abitava vicino evidentemente a uno di questi OPG, adesso dovrà fare 50 km. Mi dispiace. Ce l'ha la patente? Ce l'ha la patente? Sì, ma adesso che vuoi prendermi in giro pure? Cioè, no, ma mica la stavamo prendendo in giro, volevamo capire il disagio di spostarsi. Una situazione esasperata, non so se lei gli è mai capitata una cosa del genere. No, a me non è mai capitato. Io ho cambiato città per venire a lavorare, comunque io grazie. Ho pensato una volta che uno vince un concorso con tanti sacrifici. No, Gaetano, ho capito, ci dispiace per lei. Non è che non possiamo chiudere gli OPG, perché sennò lei non può fare 50 km per spostarsi. Questo è un problema. Non lo so, chieda il trasferimento, si può? Sì, pure per la sicurezza adesso. Sì. Adesso noi non siamo pure a che struttura andiamo ad affrontare. È un altro capitolo, questo ne abbiamo parlato, è vero, è una questione da discutere. Il suo però è un caso particolare, ha fatto bene a chiamarci. Grazie Gaetano, buona Pasqua anche a lei. Adesso parliamo, come anticipato, di monete alternative. Vai. Allora, insomma, la notizia di questa settimana è questa: a Bergamo ci parte questo progetto pilota, come abbiamo detto, insomma, per abolire il contante, tagliare, diminuire. E bisogna dire che questo Cashless City è un progetto sponsorizzato da Cartasì, cioè dalle banche. questo sì, ma è, vuoi dire, anche un'iniziativa che va nel senso di quanto auspicato da molti, insomma, di diminuire la circolazione del contanto per controllare da un lato l'evasione fiscale, dall'altra anche la possibilità per la criminalità organizzata di riciclare denaro sporco. Noi però invece ci rivolgiamo ad un altro mondo, quello delle monete alternative, che vanno sempre di più alla grande. Questa volta siamo in Liguria, dove Arcipelago Scheck ha piantato solide radici. Buongiorno Andrea Pescino. Salute. Buongiorno. Responsabile dell'associazione Comitato Quattro Valli. Quattro Cavalli era una macchina. No, è un'altra cosa. Sono anche erano i cavalli delle valli, perché sì, in effetti è un'associazione di imprese agricole, ma sì, non è Quattro Valli. Perfetto. Una cosa solo in origine: non è moneta alternativa, è moneta complementare. Perché complementare, non si sostituisce all'euro in una grande quantità di funzioni. Molto giusto dirlo. Anzi, ci spieghi esattamente che cos'è lo SCHEC? Vediamo se dunque, ce la fa. SCHEC nasce, io sono titolato parzialmente a parlare perché non sono uno dei fondatori dello SCHEC, però comunque il progetto che abbiamo fatto noi si appoggia sulla circolazione dello SCHEC. Lo SCHEC è sostanzialmente un buono locale di solidarietà. Sta a significare che attraverso questo pezzo di carta, che ha tagli di diverso valore, più o meno corrispondenti a quelli dell'euro, noi non facciamo altro che metterci delle condizioni in cui le persone che hanno competenze e hanno una disponibilità di tempo al di fuori della loro attività possono, come prevede la legge, quella 8 marzo del 2000, prevede di fare operazioni di questo genere, quindi cedere le proprie competenze, la propria disponibilità, ma anche cedere dei beni che loro non utilizzano più, certo, in un circuito di baratto. Sì. Che però non è più soltanto baratto, perché con questa circolazione di questi buoni di solidarietà, questi SCHEC, ci sono ben 125 negozi, io leggo dalla cronaca locale, a Genova per esempio, nei quali si può entrare e comprare borse o frutta. Comprare delle cose, insomma. Barattare, no? Barattare, non comprare. Vabbè. Barattare, dunque sì, allora... Se no arriva la finanza, diciamo. Sì. No, Se no arriva la finanza. No, perché proprio in effetti se analizziamo l'etimo del comprare, diverso dall'etimo del barattare. Comunque, a prescindere, dico per semplificare perché si capisca bene, perché questa cosa nasce da una grande associazione di agricoltori. Noi siamo la più grande associazione di agricoltori della Liguria e siamo quelli che dalla terra, con la volontà e le proprie energie, estraggono dei beni. Quindi noi non siamo come il venditore di smartphone che deve andare a comprare dalla Samsung. Noi traiamo dalla terra un risultato economico, che è il bene alimentare, quindi il prodotto della terra, che sia di agricoltura, che sia di allevamento di bestiame, quello che è. Se noi, e abbiamo fatto questo ragionamento, solidarizziamo una grande quantità di persone, stiamo aprendo un grandissimo orto collettivo, dove moltissime persone nella disponibilità, un'ora al giorno, tre ore al giorno, un pomeriggio intero, una giornata intera, possono venire a fare attività, intanto imparano, e questa attività è remunerata in SCHEC, che poi nel momento stesso in cui c'è il raccolto ridanno indietro prendendosi il raccolto. Questi SCHEC, se qualcuno di questi intendesse fare un'attività più lunga di quello che gli necessita per barattare gli alimenti, e gli SCHEC in più li può utilizzare per barattare, dove abbiamo un punto di scambio, che ne so, un cavalletto di una macchina fotografica che a un altro non serviva più, un giubbotto per andare in barca, una lampada da tavolo, qualsiasi quindi cosa. Per diciamo schematizzare e semplificare, poi mi dica se sbaglio, diciamo anche le categorie così merceologiche che entrano in questa forma di baratto tramite lo SCHEC, abbiamo da un lato prodotti della terra, quindi ortofrutta. È il fondamento, perché parte di lì, perché voi diciamo partite con questo, poi però ci sono anche gli oggetti, mi faccia finire il riepilogo così gli ascoltatori capiscono, poi ci sono gli oggetti usati, inutilizzati, che altre persone mettono a disposizione e il circuito si allarga, poi c'è il tempo, per esempio, no? Che altre persone possono mettere a disposizione il loro tempo, non so, per fare una ripetizione di un insegnamento di scuola, oppure babysitteraggio, dog sitteraggio, tutte cose che servono, servizi. Perfetto. E il circuito si allarga ancora di più. Nel mezzo c'è questo SCHEC, che in effetti circola. E diciamo anche un'altra cosa, ci si iscrive sul sito, si paga una quota annua, se non sbaglio, di 10 euro e si ottengono 100 check di partenza. In partenza, sì. E poi si entra nel circuito. Ma quindi certo. Il cambio non è un euro uno check? Sì, è uno uno. Il cambio, cioè il cambio non esiste, certo. Ma per dare una dimensione del valore è uno uno. Quindi sostanzialmente... E il centesimo come si chiama il centesimo di check? Checchino? Bello. No, non c'è, c'è il mezzo check. Ah, il mezzo check è bello. Sì, partiamo dall'alto. Giusto. Come quando avevamo le 500 lire come taglio minimo, non ce lo menavamo con le monetine. Però il mezzo check è 1000 lire, così se lo check vale un euro. Il mezzo check è 1000 lire. E sì. Chi li stampa gli check? C'è sicurezza anche sullo check o c'è qualcuno che fa il furbo e no, si fa le fotocopie? Lo check ha una caratteristica che se anche uno facesse il furbo ne stampasse 1000 miliardi. Sì, sì. E ce ne accorgiamo perché sul portale dell'arcipelago lui non li ha a disposizione. Come fa a darli? Quindi c'è un controllo che viene. È nominativo, cioè siccome è un associato, no, sì. Cioè, se tu vieni da me e mi dai uno check, io so chi sei, perché tu se non sei associato non puoi entrare. Ah, c'è scritto il nome sopra lo check? No, ma c'è il riconoscimento della circolazione, okay. Cioè viene uno da fuori, sì. Mi dice io gli check, va bene, chi sei, dove sei, dove sei iscritto, e il portale che è di una rapidità di utilizzo incredibile, è molto ben fatto, funziona così. Tra l'altro, però finché portale... siete, mi scusi, finché siete in pochi che vi riconoscete tutti uno a uno, sì. Questa cosa vale. Poi a un certo punto se arriva uno sceicco arabo con 100.000 sheikh, sì, ce li ha. Sì, va bene, metteremo la pena di morte in quel caso. No! Che è risolutiva, no, non adesso... perdiamo tempo a fare cause in tutte le gradi di giudizio. No, comunque è inimmaginabile una cosa del genere. Però voglio dire, siccome poi l'arcipelago Sheikh, se guardate il portale, sì. e mi riallaccio al discorso di Bergamo di prima, ha l'interesse a dire non stampiamo neanche più gli Sheikh, lavoriamo sul portale, quindi lavoriamo in elettronico. E comunque tutti quelli che fanno parte di questa associazione, almeno i nostri, quelli che aderiscono al nostro collettivo, hanno il vincolo, proprio l'imposizione di essere soggetti che si relazionano in rete. Noi ci relazioniamo in rete, quindi a quel punto lì facciamo anche tutte queste transazioni della carta che garantisce però, il baratto al terzo via rete. Detto tutto questo, Andrea, io le voglio chiedere questo, cioè secondo lei allo Stato, a parte quante sono le persone coinvolte secondo lei a Genova o in Liguria, non so se ha un dato, una statistica. No, io non ce l'ho perché io non gestisco okay. E questo lo fa la Luana Ciambi Bellini, che è la presidente di queste cose. Vabbè, per la prossima volta ci organizziamo anche con la statistica. La domanda sì. Però è questa: le persone che entrano in questo circuito check lo fanno più per, come dire, donare una parte del loro tempo, per entrare in condivisione, o anche proprio come diciamo, io ho usato l'espressione moneta alternativa, lei mi ha corretto, però proprio per soddisfare dei bisogni, cioè ho bisogno di fare la spesa, vado con gli check. Io azzardo una risposta sì. Che deriva dal fatto che dal giorno dell'inaugurazione di questo punto che si chiama solo Sheikh 100%, che è l'unico sicuramente in Italia, perché nessuno l'ha ancora fatto, perché nessuno ha alle spalle una provenienza da un'azienda agricola. Allora io dico, le persone che sono venute qua, e ne ho sentite decine, decine, decine, hanno tutti una caratteristica, la curiosità. Poi la curiosità, dopo che hanno capito le prime cose, il 10% di questi li fa fuggire, tutti gli altri aprono il cervello e capiscono che io e voi che siete lì e tutti gli esseri umani siamo dotati di infinite possibilità. Questo sistema, che poi Sheikh è acronimo di Camminiamo Insieme sostanzialmente, dice siccome siamo dotati di infinite possibilità, perché non le utilizziamo? Ecco che allora faccio un esempio incredibile, l'altro giorno è venuto un giovane, uno che lo usa una trentina d'anni, lo dico perché io sono vecchio parecchio, e questo qui è un impiegato di banca, sì. Mi stava dicendo che lui, avendo comperato una casa perché è andato a vivere con la sua ragazza, dovendo rifare il bagno ed essendo il bagno costoso, se lo sono fatti lui e lei. Dopo che è stato fatto, la madre di lui ha visto come era venuto bene e gli ha detto perché non lo fai anche a me? Lui a oggi ha già fatto 5 bagni di parenti, quindi abbiamo un impiegato di banca che ha una buona competenza a realizzare ci bagni. Dia il numero. Cambierà lavoro alla fine. Certo. Ma mi scusi. Lui, per esempio, che poi lui è uno di quelli che si è associato ovviamente, lui viene nell'orto collettivo, quindi ha la sua disponibilità lì, ma nella banca delle competenze. Noi proprio banchiamo i dati delle competenze più che del tempo. Ma ecco, lui sì. lui è uno di quelli registrati come abile e competente a fare queste cose, e quindi può tranquillamente andare una sera da una signora di 80 anni e farle il bagno, che non hai i soldi per riparare mezzo lavandino, fa. Questa signora abbiamo capito, ma le volevo chiedere una cosa forse stupida, ma non c'è un problema di evasione fiscale? No. In tutto questo, cioè l'IVA. E dov'è il profitto? Il sistema fiscale colpisce il profitto, dov'è? Beh, il profitto è che io comunque vado ad acquistarmi della frutta e in cambio di check, per cui ho rifatto il bagno alla signora. Ciò non toglie che di solito quando si fa questa operazione si paga l'IVA e si pagano le tasse, ma giusto? Infatti, se voi andate in FAQ, nella pagina FAQ della Cittadella dello Check, è molto chiaramente spiegato. Cioè, soltanto i soggetti che hanno una partita IVA possono avere un problema, ma l'impiegato di banca che è uno stipendiato fisso, quello che in questo momento sta parlando a me da Radio 24, che penso che avrà una retribuzione mensile fissa o una cosa del genere. Allora, sta parlando di me? Io sono una partita IVA comunque. Ecco, allora già lì potrebbe esserci un problema. Se l'attività che viene svolta entra dentro l'ampio campo previsto da quella codificazione che ha quella partita IVA l'Agenzia delle Entrate, no? Però noi teniamo conto che qualunque cittadino italiano, ma non solo, europeo, perché è ribadito anche dalle norme europee, può tranquillamente fare attività complementare di tipo di baratto, ma può anche farla addirittura facendosi pagare in moneta tradizionale e non locale, e ha una soglia massima da raggiungere oltre la quale poi deve... Quant'è questa soglia, è vero? 5.000 euro. Ecco, ma siccome noi partiamo dall'agricoltura, tenete conto che anche le imprese agricole hanno una caratteristica particolare che adesso penso nelle prossime norme verrà ancora migliorata per portarci vicino ai francesi, che veramente in agricoltura fa quello che vogliono. Cioè il contadino sostanzialmente non può avere un valore aggiunto, perché il valore iniziale qual è? Come la quantifichi le mie chilocalorie che spendo per farmi il culo, per lavorare in campagna 12 ore? Quando ce vo', avrebbe detto Giorgione. Ecco. Allora, va bene, Andrea, adesso questo approfondimento qua lo faremo sull'aspetto fiscale, ma in realtà l'abbiamo già fatto altre volte, tra l'altro con lo stesso Rossano Ercolini, che tra poco sentiremo sul baratto. Però insomma sembra che sia tutto, diciamo, regolare anche dal punto di vista fiscale. Intanto grazie per essere stato con noi. Prego. Grazie mille, buon sabato. Check, perché tra le righe la notizia l'ha detta Andrea, è che a Genova c'è il primo negozio nel quale si accettano solo e solamente check. E questa insomma era una notizia che andava data. Certo. Bisogna parlarne, andava santificata. 800 24 00 24, tra un attimo. Sentirsi come papà senza santi da pregare, si può fare. Eccoci qua, abbiamo Rita che ci chiama da Piacenza. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie, Rita. Allora, io vorrei nell'uovo di Pasqua non una, ma due sorprese, come un noto multimarche. Prima di tutto svegliamo in un paese serio, dove la gente si assume le responsabilità delle scelte che fa, e poi che le persone smettessero di dirti: ma smettilo di preoccuparti, tanto non è un problema tuo, no? Questo sarebbe il mio desiderio, la fine della Repubblica delle Banane. È un desiderio ampio, Rita, che dire. Ampio e articolato, però lo accogliamo molto volentieri. Che fa... Ragazzi, grazie, buon lavoro e buona Pasqua. Grazie a lei. Volevo chiederle una cosa, Rita, cosa fa per Pasqua? Sta a casa? Guardi, sono in ferie, anche se ho 61 anni, ho un arrosto che ho spento, perché ospito quella che io chiamo la mia truppa. Bellissimo. Ottimo. La famiglia, va bene. Grazie Rita. Grazie ragazzi, mille. Arrivederci. Arrivederci. Allora, mi è piaciuto molto l'appunto sul fatto, perché quello è su tutti noi in realtà, non è sui politici o il paese, sul fatto di smettere di dire che mi frega a me, non è un problema mio, non mi riguarda, è di qualcun altro. Perché questa è una cosa che possiamo svegliarci tutti domani mattina. Se lo facessimo tutti, domani mattina ci sveglieremmo in un paese in cui non ci sono più persone che dicono non è un problema mio. La rivoluzione mentale degli italiani, tante volte evocata e mai ovviamente è giunta. Allora è il momento di Rossano Ercolini. Stasera mi butto con te. davanti. Uova di Pasqua, carte, cartacce, buste, contenitori, imballaggi, diciamo l'incubo di Rossano Ercolini. Buongiorno, buon sabato. Buongiorno. L'incubo, sì. Non solo tuo, ma insomma. Beh, sì, sono comunque rilassato. Adesso se... ti accingi a una Pasqua rilassata o sarai... Sì, no, adesso ho una Pasqua in famiglia. Di riposo, sì. Rossano Ercolini che va in giro presentando, insomma, le iniziative Zero Rifiuti. Lui fa parte della rete Zero Rifiuti. Questo, diciamo, l'aspetto serio. L'aspetto meno serio è la rubrica che fai con noi, nel quale andiamo raccontando così. Ma tanto va in giro che è la prima volta che ti becchiamo a casa. Sì. Sì, forse direi forse proprio sì. Di sì, sì è il primo sabato da almeno due mesi. E allora, insomma, la carta dell'uovo di Pasqua, Rossano, vabbè, è un problema, cioè sicuramente non è questo che intasa i cassonetti dei rifiuti degli italiani, però... Sì, è un problema perché dentro la sorpresa ci sta sempre anche la parte negativa della sorpresa. Tuttavia, diciamo, è relativamente semplice. Sì. Perché la carta, l'imballaggio va nel cosiddetto multimateriale, vale a dire con la plastica, eventualmente laddove si raccolgono insieme plastica e metalli. Quindi nella plastica, non va nella plastica. Beh, io l'avrei messo nell'indifferenziato perché pensavo che fosse non plastica. Buona, non plastica dura, invece va... Beh, la plastica non è buona perché è un poliaccoppiato e quindi vi è una parte di plastica, è un velo saldato. Quello argentato. Sì, quello poi, rivolto verso l'interno. E poi è sporco di cioccolato la maggior parte delle volte e c'ha su anche le mie impronte digitali di solito. Comunque va nella plastica, sì. Anche se è sporco di cioccolato? Sì, diciamo che dal punto di vista della sua riciclabilità è abbastanza modesta perché può andare nel cosiddetto misto di plastiche, plasmix, quindi deve essere aggiunto ad altri additivi, sì, plastici per riprodurre prodotti da plastica. Plasmix, perché bisogna sapere che anche i materiali poi a loro volta hanno delle sottodivisioni. Dico bene, Rossano, mi sto avventurando in un ottimo terreno. Sì. Quale? Sì, anzi, Marconi, devo dire però. Che tu dicevate che è uno spazio semiserio, invece secondo me è molto efficace. Grazie, se lo dici tu, allora ci credo. Senti, perché poi quando abbiamo pensato questa rubrica, no, consultando anche i colleghi, una collega ci ha detto, Anita, ci fa, ma la busta del minestrone per esempio, no? Dice che è sporca del resto del minestrone congelato che poi si mette nel pentolone eccetera, anche quella pur essendo sporca dove la butto? Cioè tutti questi imballaggi contaminati un po', no? E sporchi, plasticosi, diciamo così, sì, vanno, sì, tutti, diciamo, là. Sì, ora se noi riusciamo ad essere mediamente responsabili, come diceva l'ascoltatrice di prima, è meglio, però poi... La lavatina, cioè, dici di dargli una pulitina? Sì, proprio non lasciarci, per esempio, parti di cibo, parti organiche che contaminano a livello di purezza merceologica. Insomma, una pulitina, via, diciamo. Però non occorre nemmeno essere paranoici, sì, perché comunque i materiali vengono ripuliti all'interno, nel caso della carta vanno a finire in cartiera, quindi poi c'è una separazione ulteriore. Per quanto riguarda le plastiche vengono rigenerati, per cui se la presenza di frazione organica non è rilevante, il prodotto riesce a essere riciclato, sì, ad essere riciclato. Però questo è importante da dirlo, perché un sacco di volte uno alla fine tra decidere, dice oddio devo lavare la busta del minestrone sul gelato, alla fine uno la butta nel genere. Infatti, lo preciso sempre, perché altrimenti sembra che uno debba essere un missionario per fare un'operazione. Esatto, un missionario bellissimo. Cioè, mezza carotina surgelata non danneggia tutta la produzione della plastica di una metropoli. Assolutamente. Se io lascio in un vasetto di vetro mezzo contenuto in marmellata, naturalmente lo contamino da un punto di vista merceologico. Quindi, ma soprattutto butta via della marmellata. Io cucchiaino di marmellata non lo butterei mai via. Anche se io ho letto che sta arrivando, proprio grazie a due aziende italiane che fanno una joint venture, la plastica biodegradabile che viene dalle patate. Ora sembrava una follia, ma vabbè, ma ce n'è tanta di plastica, questa, sì, di piatti, di i cosiddetti piatti di plastica fatti in realtà, mi sembra, in una specie di fibra di mais che è tutto, che va nell'umido insieme a tutto il resto, giusto? Sì, diciamo, ora anche il famoso caso delle capsule del caffè, adesso grandi marchi si sono orientati con capsule biodegradabili, compostabili, esatto. E quindi il trend ormai è quello, anche perché questa storia dei continenti di plastica, che noi mangiamo plastica all'interno dei pesci, sta scuotendo le menti, sta scuotendo l'opinione pubblica, quindi in qualche modo... In America, credo a New York, hanno abolito i contenitori di plastica per il cibo da asporto, proprio per quello che dicevi tu. Ci fermiamo qua per ora, grazie Rossano, ci abbiamo il tavolo. Grazie, grazie. Buona Pasqua. Ciao, Rossano Ercolini from Capannori, Zero Waste Europe. Noi ci fermiamo per il traffico e torniamo tra poco, continuiamo a parlare di cioccolata, anche perché ho letto che consumo di cioccolata fondente aiuta le diete, si può dimagrire del 10% in più addirittura. Io ne mangio tantissimo. Vedi? Si può fare. Cronache da un paese migliore. Voglio vivere così, col sole in fronte, e felice e caldo, beatamente. Voglio vivere e goder l'aria del monte, perché questo incanto non costa niente. Ah, ah, oggi amo ardentemente con uccelli impertinente, me ne spero dell'amore. Sempre il cuore, sai perché? Voglio vivere così. Voglio vivere così. Ogni tanto andiamo a incontrare persone che a un certo punto hanno detto questa frase: voglio vivere così, mollo tutto e vado via e cambio vita. E ricomincio. Oggi salutiamo Simone Sabaini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buon sabato, quasi anche buona Pasqua. È titolare di Sabadì, un cioccolatificio, come si dice? Sì, diciamo una bottega artigiana di cioccolato. Bottega artigiana di cioccolato, Simone Sabaini, che si è trasferito dalla provincia di Verona a Modica, in Sicilia, qualche anno fa per fare questa scelta di vita. Sì, esattamente. Io vivo a Modica dal 2008, ormai sì. Sono quasi 7 anni. Diciamo che è frutto di un processo di cambiamento che è nato in realtà più di 10 anni fa. Io, appena laureato, ho deciso, come tutti si aspettavano, di investire nella massimizzazione del profitto e delle competenze. Poi mi sono reso conto che dopo qualche anno in realtà mi andava stretta questa dinamica. Mi sono reso conto che era una dinamica che portava al raggiungimento di uno status e all'affermazione di questo però status. Però vedi Simone, parli ancora quasi, tu hai lavorato per un fondo di investimenti, sei laureato, sì, eccetera. Parli come un consulente finanziario. Parli ancora come un consulente, è bella questa cosa. Più che un cioccolataio. È bella questa cosa, hai mantenuto il meglio, diciamo, l'erudizione, la capacità di esprimerti, però adesso di fatto hai completamente cambiato vita. Sì, assolutamente. E infatti la seconda parte della mia vita, che per fortuna me ne sono accorto in tempo, perché insomma, a 30 anni ho deciso di cambiare, ho deciso di puntare su altro, che era la bellezza, il tempo, la mia qualità della vita. E a 30 anni hai fatto questa scelta, complimenti, sì. Perché 30 anni non sono pochi in generale, nel senso che è già maturo, è già un uomo, però al giorno d'oggi tanti trentenni non hanno veramente idea di quello che vorrebbero dalla vita. Tu invece l'hai avuto chiaro. Cos'è successo? Hai avuto un'illuminazione o è stato un percorso? No, è stato un percorso. Io fin da piccolo, diciamo, sono sempre andato controcorrente in qualche modo. Non volevo che la società, la famiglia mi inducesse a fare cose che io non sentivo mie. E quindi le famose aspettative degli altri, diciamo. Le aspettative degli altri, esattamente. E invece a un certo punto ho maturato l'idea che le aspettative dovevano essere le mie, quindi ho deciso di puntare in realtà anche in termini di massimizzazione, se vogliamo proprio in termini di economici, ciò che manca, la risorsa scarsa è il tempo e la bellezza. E quindi ho deciso di puntare su queste, che determinano la mia qualità della vita. Ma avevi le spalle coperte, come si suol dire, o hai rischiato tutto a un certo punto? Com'è andata? No, ho rischiato tutto. Io ho rinunciato a più di 3/4 del mio stipendio, senza parlare di bonus vari, perché io ho lasciato la finanza e sono entrato in altro mercato. grande consorzio di commercio consolidale, sì, dove vi assicuro che gli stipendi non sono molto alti, ecco. Certo, immaginiamo. Però, però mi ha dato molto, ho viaggiato moltissimo in Sud America, ho lavorato con i produttori di cacao, di zucchero. Io, guarda, io approvo moltissimo l'idea di appunto prendere la propria vita in mano e di non occuparsi delle aspettative degli altri. Sarà che l'ho scritto nel mio libro ed è praticamente solo su questo, e quindi condivido moltissimo, e mi sembra bello quindi raccontare delle storie di chi l'ha fatto, perché in realtà si pensa sempre sì, ma però poi io non riesco a farlo, invece si può fare, si può fare. Esatto. Simone, ma ecco, la mattina quando ti svegli cosa vedi all'orizzonte? Cioè apri la finestra, cosa vedi? Allora io, ecco, in questo sono decisamente un privilegiato, perché io vivo in centro a Modica, ho davanti San Giorgio da una parte e San Pietro dall'altra. Cosa sono? Sono due chiese? Sono le due cattedrali di Modica, di una Modica è una città arroccata, barocca, di una bellezza veramente emozionante. E ogni mattina mi emoziona. Devi twittarci una foto, devi assolutamente twittarci una foto. Guarda, andate sul sito sabadi.it, sì, e vedete ma noi, ma noi vogliamo il tuo tweet. Il momento provoco, andate sul sito Sabadi e così si fa un po' di pubblicità. Vabbè, giusto, giusto. Se riesci anche a fare un tweet con una foto di quello che vedi dalla finestra, qui oggi Milano, Monterosa, ho già detto nuvoloso, lì Modica, San Giorgio com'è? Sole? Allora, oggi e stamattina è un po' incerto, diciamo, ma la giornata si aprirà, io sono fiducioso. Ma vabbè, quindi tu produci cioccolato? Se non fossi fiducioso non avresti fatto quello che hai fatto. Cioccolato, parliamo di cioccolato. Sì. Una bottega artigianale di cioccolato biologico, hanno scritto i giornali. Sì, esattamente. Com'è il cioccolato biologico? Allora, io compro direttamente le fave di cacao da produttori che ben conosco da quando lavoravo in altro mercato, e loro lavorano, oltre ad essere certificati biologici, sono anche da commercio consolidale, da presidio Slow Food, quindi io cerco in tutti i modi di, nel mio piccolo ovviamente, di aiutare le piccole comunità che stanno dall'altra parte del mondo e sono meno avvantaggiate rispetto a quelle che siamo, i contadini nostri, ecco. Sì. E tra l'altro prima l'ho detto, ho letto questa ricerca che dice che il cioccolato fondente addirittura è un coadiuvante delle diete, che è il sogno credo di tutti i golosi, di poter mangiare cioccolato pur stando a dieta. Tu che cioccolato fai? Anche... Sì, allora questa diciamo, sono diversi studi, la più recente è quello dell'Università di San Diego, sì, che dimostra che somministrando un cioccolato ad alto contenuto di catechine, sì, diciamo un gruppo di pazienti, induce il dimagrimento. Beh, in realtà allora ciò che induce il dimagrimento è la quantità di catechine presenti nel cioccolato. Ecco, sappiamo però che il cioccolato mantiene le sue catechine se lavorato a freddo, e io guarda caso lavoro al cioccolato a freddo. Vabbè, io ecco, bravo. Bravissimo. Il tuo cioccolato fa dimagrire. Così, ma adesso però sogniamo per un attimo, non pensiamo a dimagrire, pensiamo a quanto deve essere buono il cioccolato che esce fuori dalla tua bottega artigiana, ne vendi in giro per il mondo, quindi possiamo dire anche una storia di successo, no? Decisamente, io ormai servo più di 1000 punti vendita. Ah, dobbiamo chiudere, scusa Simone, io me l'ero presa comoda, pensavo che ci fosse tempo, invece dobbiamo chiudere, grazie per essere stato con noi. Buona grazie Pasqua mille a te. Diamo Simone il premio Sabai alla signora che ha detto che non vuole più un mondo dove la gente dice non è affar mio, non mi preoccupo, non me ne occupo. Da Piacenza, esatto. Ed è tutto per oggi, domani puntata registrata, grazie a tutti, Andrea Piana, Miriam Lucchetti, Claudio Schettone, Paolo Corleoni, ciao. Ciao da Carlo Gabardini e Alessio Maurizi. Buona ciao. Pasqua.